che quando piove si sia autorizzati a dare del lato al governo è una vecchia, vecchissima facezia della politica italiana. Figuratevi che risale, se non vado errato, a quando la destra storica dei Casoli e dei Sella fu rimpiazzata al governo dalla sinistra dei Cairoli e dei De Pretis, gente, detto tra di noi, che quanto a destrezza di mano non aveva nulla da imparare. E talvolta la si attribuisce, non so con quanto fondamento, allo stesso Giosuè Carducci, che di quegli anni agitati fu testimone e protagonista. Ed è come si diceva a quei tempi, una battuta tutto sommato bonaria che può essere ripetuta con pari soddisfazione da entrambi i versanti dello schieramento, perché chi è dalla parte dell'opposizione ne trae il gusto che sempre si prova nel dare del quadro al governo, e chi sostiene la maggioranza, può sottolinearne l'evidente mancanza di consequenzialità, ricavandone quasi un implicito attestato di onestà per l'esecutivo. Che è indubbiamente una conclusione forzata, perché anche senza tirare in ballo l'effetto serra, che Carducci d'altronde ignorava, il fatto che il ceto dirigente non abbia responsabilità per la pioggia non esclude naturalmente che possa rubare. Le due affermazioni sono del tutto indipendenti e nulla osta che siano vere entrambe, a meno naturalmente che faccia bel tempo. Ma quando piove a Milano? Quando piove a Milano, capitale economica del paese, centro nazionale della finanza, dell'editoria, del commercio, della moda, del terziario avanzato, delle comunicazioni e di chissà che cos'altro. Quando piove nella città italiana che più si considera vicina all'Europa e tutto si blocca, il traffico va in tilt, i tombini si ostruiscono, le vie di grandi comunicazioni si trasformano in fiumane amazzoniche, le cantine si allagano, i semafori si spengono, esondano contemporaneamente il Seveso, l'Ambro, l'Olone e la Vettabbia, e il tempo di percorrenza sul percorso Porta Romana Corso Sempione raggiunge le 2:40. Che cosa dovremmo dire quando succede tutto questo di coloro che ci governano a livello locale? Non che rubano, Dio ne scampi, perché niente e nessuno ci autorizza un'ipotesi del genere, ma che siano degli inetti, sicuramente sì. Il loro compito è quello di organizzare la vita cittadina in circostanze normali, e non c'è nulla di più normale nella nostra latitudine, nella nostra posizione geografica, nel fatto che in autunno piova. Se non piovesse, anzi, ci sarebbe da preoccuparsi. Eppure ogni volta che si verifica questo fenomeno così non proprio imprevedibile, l'intera città si ritrova, metaforicamente parlando, in braghe di tela, o meno metaforicamente, nel guano fino al collo. E sì, lo so che non vi dico niente di nuovo, ma vedete, non ce la faccio più a leggere un giorno sì e l'altro anche i complimenti di cui sindaco, giunta e maggioranza municipale sono tanto prodighi verso se stessi, e i riconoscimenti che non si fanno mancare per le competenze dimostrate, il buon lavoro svolto e le sviolinate che gli riservano dei commentatori che magari menano vanto della propria indipendenza e obiettività. C'è un fondino di Piero Stellino oggi in cronaca nel Corriere della Sera che vi raccomando. Di sentire tutto questo per dovere poi assistere allo sfacelo di una città in cui vivo da sempre e che, sarà l'età, sarà un laudato al tempo di Sacchi, io ricordo governata un po' meglio, ricordo governata se non proprio con spaventosa efficienza, almeno con un minimo di buon senso. Perché certo è vero che le risorse sono scarse, i problemi sono immensi, il traffico è una bestia che non si doma da un giorno all'altro, che per riorganizzare una rete di mezzi pubblici piuttosto obsoleta per adeguarla alle necessità di oggi ci vuole del tempo e via andare. Ma per sostituire le grate dei tombini con un modello meno ostruibile, santi Dio, non ci vuole un genio amministrativo particolare. E in attesa dei radicali interventi che ci promettono, in attesa dei radicali interventi di cui si dovranno decidere, non so, un passante ferroviario che è già stato inaugurato 2 volte ma non è ancora collegato con la ferrovia, o una rete metropolitana che sia o rete o metropolitana o possibilmente tutte e due, ma che qualcosa sia, in attesa di tutto ciò io sarei disposto ad accontentarmi per ora anche di qualche tombino nuovo. Ma di darci i nuovi tombini, ahimè, questi inetti, questi incapaci, queste smentite viventi della tradizione del buon governo ambrosiano non hanno la minima idea. Sono troppo occupati a svolacchiare di qua e di là, a presenziare a questo o quell'evento, a visitare la Palestina o Sud America, e sono troppo occupati soprattutto a cantare le proprie lodi. Se spendessero in grati di scarico tutto quello che dilapidano in pubbliche relazioni e in spese d'immagine, per non dire di cerimonie di pubblico autoincensamento a carico del contribuente come gli stati generali che stanno preparando, la prossima volta che piove i pedoni riuscirebbero a non infradiciarsi fino a metà polpaccio. Ma per i polpacci dei pedoni, questi pavoni perennemente intenti a fare la ruota, queste cicale egoriferite non provano il minimo interesse. I loro interessi sono di natura eminentemente estetica. Gli unici interventi di cui in questi 4 anni c'è giunta notizia sono stati interventi di arredo, di abbellimento, di facciata, di immagine appunto, e facciamo una bella piazza di qua, anche se poi non ci si può più passare, mettiamo una fontana di là, sostituiamo i panettoni di cemento che sono brutti con le colonnette di ghisa, che a svelvero e non ci vuole niente ma puoi mettere come stanno bene, rifacciamo quella pavimentazione in granito che fa molta più figura, spargiamo dappertutto fioriere e alberelli, e poco male se il risultato sarà quello di trasformare un dignitoso spazio ottocentesco come Piazza della Scala in quella che Vittorio Gregotti ha definito, mi sembra, un dehors da stazione di provincia, perché fatui e provinciali come sono, a loro le piazze delle stazioni di provincia piacciono moltissimo, e le fioriere e gli alberelli anche. Che poi i fiori siano destinati a seccare e gli alberelli a deperire perché nessuno li innaffia, ed estate, a differenza che in autunno, a Milano non piove, e che ci siano in compenso centinaia di grossi alberi malati da sostituire, eccetera, eccetera, beh, tutto questo non è un problema che vi riguardi. Alla manutenzione hanno deciso una volta per tutte che debbano provvedere i cittadini in proprio, sponsorizzando le aiole e adottando le vie. Hanno persino aperto un ufficio a cui rivolgersi a tal fine e non si capisce che cosa vogliamo di più. Già. Naturalmente non si può volere di più. Non si può volere di più quando l'opposizione o ciò che si spaccia per tale non riesce neanche a trovare un candidato da opporre al principe dei pavoni, perché uno che sarebbe stato tanto bravino non ha avuto il permesso del fratello grande o del grande fratello, non so, e gli altri, avendo cose più serie da fare, rifiutano a raffica, con il risultato che quando ne troveranno uno, il poveraccio farà la figura della scelta di 15ª o 16ª mano, con i risultati che si possono prevedere. E l'inettitudine non è patrimonio della sola maggioranza, ahimè. Facciamoci forza perché sarà un lungo inverno.